Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, cari ascoltatori. In questo 10 maggio, in questo meraviglioso 10 maggio, scoppiettante di notizie, di comizi, di assenteisti. Comunque, iniziamo con i santi. Anche perché è Sant'Alfio. E c'è, pare che Marchini. No, non è lui. Non faceva il costruttore, no. Anche perché era gemello di altri due santi che si festeggiano insieme, perché tutti insieme sono stati decapitati dall'imperatore Decio. Gli altri due si chiamavano Cirino e Filadelfo, martiri. Come Pomicino. E, beh, Alfio, Marchini, chissà, Cirino, adesso hai detto Pomicino. Una cosa che Marchini si arrabbia, secondo me. No, vabbè. Ieri c'è stato questo bellissimo scambio di battute di Giachetti. Giachetti gli ha detto, Alfio, ma dai, ma quale? Il peggio del passato romano sta con te. E lui gli ha risposto, beh, io almeno non mi nascondo, non come te che non citi il tuo partito. Beh, un bel livello di dibattito. Sì. Torniamo ai santi. Pensa che questo Alfio pare che sia anche è un santo che piace molto alla mafia. Sai perché? Perché siccome sotto l'imperatore Decio gli hanno tagliato la lingua, sì, e il patrono dei muti. Molti, questo non piacerà ad Alfio Marchini, no, però come piace paragone. Molto anche a Telelira, quella famosa di De Luca, Lira la, TV. La TV migliore delle interviste. Dove il miglior giornalista De Luca è muto, non fa mai domande e regge solo il microfono. Tra gli altri santi, Dioscoride, Frodoino e Giobbe. Giobbe è proprio quello del libro di Giobbe della Bibbia, che io invito tutti a leggere, perché è uno dei più meravigliosi racconti poetici su come sopportare il dolore del mondo. Poi ancora San Calepodio. Chi non conosce un Calepodio? Oggi nel 1962 la Marvel lanciava l'incredibile Hulk, che è praticamente il povero contribuente italiano che diventa sempre verde di rabbia, lo sai questo. E poi nel 1503 Colombo, che non aveva scoperto nel 1492 il paradiso terrestre, però scopriva le Cayman, almeno un paradiso fiscale. Dopo l'America il paradiso fiscale, esatto. Mi sembra giusto. Allora, non è vero che io ho difeso gli assenteisti, non è vero, ma non recederò di un millimetro. Nel difenderli? No, parliamo della cosa di Foggia, nel dire che c'è un po' di accanimento nei confronti del... Cioè, tu difendi Antonio Stanchi, il cui cognome già la dice lunga. Sì, effettivamente hanno pizzicato tra i vari furbetti cosiddetti del cartellino a Foggia, tale Antonio Stanchi. Tale dirigente Antonio Stanchi. Sì. Va bene, però si difenderà. Che no, io aveva anche inneggiato contro lui era uno di quelli che aveva lasciato dichiarazioni contro i furbetti, poi timbrava per altri, anche no, per la moglie. Allora, la moglie, qui si avanza l'unico vero motivo per il quale forse c'è un attenuante. Cioè, stiamo parlando forse di una vittima delle mogli italiane, che al confronto dei PM sono almeno 30-40 milioni di italiani, insomma. Ma voglio dire, i PM sono angeli della bontà rispetto a talune mogli. Care donne, vi vogliamo bene, care mogli. Ho detto a talune, mi sono salvato. Quindi forse Antonio Stanchi è una vittima di una moglie violenta, che ne possiamo sapere? No, però io non è che voglio difenderli, cioè se hanno... No, li hai difesi. Ma no, dico che c'è un po' troppo accanimento. Cioè, mi ha molto colpito la dichiarazione di uno di questi che dice, ma guardate che se tu non fai così, e non sto dicendo che sia non giusto, ti rivolgono la parola. Il giorno dopo c'hai ti creduto. Tolgono il salutino, dai, poi sì, non ti rivolgono la parola, poi ti fanno il dispettuccio, ma poi ti isolano. No, ma voleva dire che ti se... ricordi il dipendente, quel santuomo di Ciro Rinaldi, che effettivamente ha detto mi hanno fatto l'inferno intorno, quando lui ha tenuto duro e ha fatto gli mandati. Ma lui aveva fatto la denuncia. Allora, questo invece sono argomenti a cui ricorre la gente che è sorpresa a timbrare e uscire. Sì. Allora capisci che la tesi secondo la quale se non timbri uscendo gli altri non ti rivolgono la parola, non stanno in cielo né in terra. Cioè non ti rivolgono la parola nel senso che è vero, a quel punto non vai al circolo del tennis con gli amici e non possono parlarti perché non sei lì, ecco, mai in ufficio. Non vai al mercato, ecco, in quel senso non puoi lì, parlare forse, non ti... ma altrimenti no. Però e poi dico: ma quante persone nelle aziende private vanno a bere il caffè ogni 10 minuti? E qui subito: ah, ma il danno lì se lo sobbarca il datore di lavoro mentre questo è pubblico. È vero, è vero. Però cioè, è il moralismo che non mi piace, quello a dire: ecco, vabbè, quelli sono i cattivi. Vabbè, allora niente. Allora io a questo punto, Sant'Alfio, pensaci tu. Se l'integerrimo Alessandro Milan difende anche l'assenteismo. No, l'assenteismo non lo difendo. No, io spezzo una lancia per, secondo me, una vittima della moglie, il povero Stanchi. Non lo so, però detto tutto questo, il problema è che, come vedi, chiacchiera, non si cambia niente. Anzi, si scopre, come raccontato sulla stampa, che il decreto della riforma Madia, annunciato per l'ennesima volta con grande enfasi dal governo, come risolvi dopo tutto. Dopo Sanremo, in dopo due le giorni li cacciamo, in 30 giorni finito il procedimento, è scritto coi piedi e il Consiglio di Stato dice: beh, potete pure votarlo, ma così com'è non cambia niente. E questo dovrebbe essere l'ennesima lezione del governo, gli spacca montagna a parole, diciamolo un pochino. No, la stampa racconta che questo decreto annunciato dopo Sanremo, cioè li allontaneremo, è ancora non approvato perché appunto va riscritto. Non è saranno i piedi meravigliosi della Boschi, che piacciono molto di voi maschietti, però in realtà piedi sono. Allora, io non capisco questa cosa della Bosca, adesso la sentiamo. Ieri, tra l'altro, i giornali se ne sono svegliati 24 ore in ritardo, perché esatto, noi ieri ne parlavamo, ecco, no? Della Bosca, che ha detto: chi vota no vota come Casa Pound, e Cooper lo gli ha fatto notare che sembrava un'uscita un po' infelice. È e lei? La Boschi risponde: più volte io ho sentito equiparare chi vota sì alle riforme costituzionali a Verdini, dicendo che chi vota sì vota insieme a Verdini. E in un incontro pubblico mi sono limitata a dire che chi vota no come Casa Pound. Ho semplicemente fatto una constatazione. Lo so, la constatazione. Io prima, Oscar, ho detto: vabbè, ma anche dire che i tedeschi parlano la stessa lingua di Hitler è una constatazione. Certo. Renzi è toscano, siamo, come il Pacciani. Siamo su una, è una constatazione. China, devo dire. No, nel senso che non dico qualcosa di... No. Assolutamente. È una constatazione. È ovvio che queste constatazioni sono armi politiche, sono pietre, come evidente, perché sottolineo, stiamo parlando oramai, l'evoluzione del linguaggio all'interno del PD tra compagni di partito è più o meno simile alle fucilate che si tiravano gli italiani e gli austriaci da trincee contrapposte. E comunque il fatto che sia scesa in campo in direzione parlando, cosa che tutti hanno notato perché non capita mai, significa che è come quando Napoleone lanciava la guardia, la vecchia guardia, aveva finito le riserve quando Napoleone lanciava la vecchia guardia come a Waterloo. Guarda che è dura tenere di qui ad ottobre a questo ritmo di difesa del governo. No, secondo me è proprio banalmente un'uscita infelice, perché è vero che è una constatazione banale. Tra l'altro, nel dire questo, la Boschi dice: ma è il marchio sotto il quale parte l'intera campagna del referendum di ottobre su cui Renzi ha messo la testa. E poi soprattutto dice: ma scusate, voi ci accusate di votare come Verdini, allora io dico voi votate come Casa Pound, che non è un elogio del sì di Verdini, no. È una presa d'atto che il sì di Verdini forse alla Boschi lo vive come un qualcosa che, per il quale può vedere un indice puntato contro, come dire. Sì, non c'è dubbio. Comunque il clima è pacato. Il clima è pacatissimo. E infatti ti faccio in ascoltare e vai. Gigino De Magistris, il sindaco di Napoli. British, direi proprio. Sì, British. Renzi, devi cagarti addosso. Non ne avete mai, mai, il più confuso dovete usare. E non sai che un cazzo perché ci sarete voi. Renzi, vai a casa. Devi avere paura. Ti devi cagare sotto, Renzi, cioè, devi avere paura. Capisci, il Lazzaroni, il cardinale Ruffo, un eterno italiano, questa cosa qua, Masaniello, Cola di Rienzo. Questo è molto Masaniello. Cioè, l'insurrezionismo a Ruffone, quelli che hanno potere e hanno fallito nella professione e dopodiché si inventano base popolare. Cioè c'è tutto, è un pezzo di storia italiana. E va bene, intanto ci chiama Armando da Salerno. Buongiorno Armando. Buongiorno, senta, io volevo intervenire a proposito dell'inizio trasmissione sul fatto degli assenteisti. Sì. E volevo fare una riflessione a differenza del suo collega Giannino. Cioè è pur giusto, è vero che gli assenteisti vanno puniti, vanno redarguiti, vanno fatto qua e vanno fatto là, però vorrei capire come mai i consiglieri regionali, i nostri politici firmano, prendono l'autistipendio, se ne vanno, non producono un bel niente, e contro di loro nessuno si scaglia, nel senso che nessuno fa niente. Allora in che Italia siamo? Sempre i poveri, sempre quelli piccoli devono pagare. Vedi, cioè, che c'è un po' di accanimento anche lei. Cioè lei dice, lei dice che se il parlamentare, il consigliere regionale o comunale non va a votare, io non vado a lavorare. Cioè, ma possibile mai davvero che facciamo ragionamenti simili? Cioè. No, però vede un'ingiustizia, Armando, ce la si prende sempre con i più deboli, dice, i più deboli. Ma adesso, un contratto di lavoro. Mi fanno passare per il difensore io dell'assenteismo. No, quando, ma il problema è che un paese che non capisce che il contratto di lavoro si rispetta è l'Italia, capisci? E ognuno cerca scuse per sé, c'è sempre un'eccezione a una regola, per sé c'è sempre un paragone su qualcuno che contravviene al proprio dovere per contravvenirlo a propria volta. È l'Italia. Francesca ci chiama da Bari. Buongiorno. Finalmente una donna. Abbiamo sempre poche donne. Viva le donne, Francesca. Buongiorno, salve. Allora, io volevo portare, diciamo, una mia testimonianza rispetto al lavoro nel pubblico impiego. Ho fatto il tirocinio e ho affiancato un assistente sociale all'interno di una ripartizione del comune. E mi sono resa conto che affiancavo un assistente sociale precisa, puntuale, che lavorava benissimo, sempre attenta ad ogni pratica, e per questo considerata, se posso usare il termine, la rompipalle dell'ufficio, nel senso che... Cioè quella era che quella banalmente che... faceva il proprio dovere, era la rompipalle. Esatto, faceva il proprio dovere ed era sempre quella emarginata... di cui parlavano tutti male. Vedi che un po', Oscar, vedi che un po' c'ha ragione quello lì, il furbetto, no, che dice perché quelli come lui che ci ha telefonato, e lo dico senza, però alla fine determinano condizione. Io dicevo quello del giornale sul Corriere che dice se non ti adegui ti isolano. Cioè Francesca ci racconta che una brava veniva considerata una rompiballe perché era brava. Perché evidentemente non c'erano altri colleghi che rompevano le palle a quelli che dicevano rompipalle alla brava. Sì. Cioè, il problema esatto, è i dirigenti che è facevano la diffusione, Francesca, dell'aria, facciamo meno, facciamo tutti così. Dai, su. Il dirigente non c'era, Francesca. Che... Sì, il dirigente c'era, ma tanto non si è adeguata che è stata poi spostata in un'altra ripartizione. Ecco. Quindi immagini lei. Cioè, alla fine è successo questo. È evidente, cioè, vedere gente che lavora in un determinato modo e che comunque non viene gratificata per nulla, per chi inizia questo tipo di professione è veramente mortificante. Però ecco, magari poi c'è tanto meglio da altre parti, non lo so. Va bene. No, ma è chiaro. Allora, la ringraziamo, Francesca. Andrei a Pesaro, dove c'è Loreno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io voglio dire soltanto una cosa semplice. Sono un dirigente di un'amministrazione pubblica, qui locale. Da me tutti timbrano l'ingresso, tutti timbrano l'uscita. Se vogliono andare a prendere un caffè lo possono fare, timbrano, escono, ritimbrano quando entrano. Quindi anche i 5, 7, 10 minuti del caffè sono, diciamo, scontati, decomputati, sì, certo, scontati. Per me questa è una situazione normalissima, non abbiamo mai avuto casi. I miei dipendenti, i dipendenti del collega, della nostra amministrazione, sono tutte persone serie, sono la normalità. Il vero problema che noi affrontiamo quotidianamente è i sempre maggiori carichi di lavoro, con la impossibilità di aumentare l'organico o di adeguarlo per le noti limiti di spesa. Perché se noi puntiamo tutta la problematica della pubblica amministrazione su l'assenteismo è un fenomeno patologico che va curato, va represso e finita la storia. Però la normalità dei casi, e io spero che come per la mia amministrazione lo sia per tante altre amministrazioni, è che i dipendenti sono persone serie, capiscono il valore della loro attività, capiscono anche il momento fortunato in cui si trovano rispetto a chi magari non ha lavoro e fanno quello che devono fare, timbrano quando entrano in orario, c'è insomma, una flessibilità si comportano bene. Ma noi non generalizziamo, nello spirito civico di dover parlare delle vicende numerose, troppo diffuse ancora, in cui invece ci sono isole conclamate di assenteismo. No, su questo fai bene, Oscar, a dirlo, perché poi sembra se no a dire dite che sono tutti così. No, però un dato, per esempio, che abbiamo pubblicato da Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, i permessi per la legge 104, no? Per assistere i familiari che hanno bisogno, sono disabili, insomma hanno bisogno di assistenza. Disabili, malati. pubblico impiego. Sapete quanti nel pubblico impiego? Il 9,8% dei dipendenti usufruiscono di questo. Nella scuola il 13,2%, i dipendenti privati l'1,5%. E che adesso ci dirà il dirigente pubblico che è un caso? No, non è no, un caso. Oppure non credo che ci sia una statistica per cui i familiari dei dipendenti privati siano meno malati o meno disabili, siano così più fortunati. Non in quelle proporzioni, naturalmente. Esatto. Cioè nel pubblico impiego c'è un 10% di chi usufruisce della legge 104, nella scuola il 13,2%, tra i dipendenti privati l'1,5%. Riflettiamo, cioè mi pare che il numero si commenta da solo, no? La proporzione di 1 a 10 quasi. Vabbè, poi sono, è anche vero, adesso per bilanciare, per non prendersela con i dipendenti pubblici, diciamo, questa, è la radio, questa è la radio di Confindustria, sì. Io per esempio, e sono sicuro che Alessandro Milan condivide, mi vergogno per le imprese italiane di cui si apprende che hanno preso la bellezza di 100.000 benefit di contribuzione per posti falsi, quelli del job site. Lo dice l'INPS, Lo dice l'INPS. E parla di 600 milioni di euro di truffa. Allora, cari imprenditori italiani, come vedete, rispecchiate il paese della truffa anche voi, che poi vi riempite la bocca tante volte. Non sto generalizzando, ma siete tanti però, siete veramente tanti. 60.000 aziende che hanno truffato sulla decontribuzione, e anche lì è un numero troppo elevato per pensare che sia qualche mela marcia. Allora, vuol dire che, come si vede, c'è un paese di approfittatori di soldi pubblici. Io veramente sono senza parole. Mi avessero chiesto, c'è qualcuno che truffa su questo? Sì, ma non avrei mai immaginato numeri di queste proporzioni. Sono tanti. Ci chiama Andrea, guardate che poi della legge 104 tra poco parliamo. Comunque ci chiama Andrea da Bologna, buongiorno, anzi ci era mantenuto il numero da ieri, perché so che Andrea voleva intervenire. Buongiorno Andrea. Allora, buongiorno, io sono pisano d'origine e uno può dire che ho dei pregiudizi verso i livornesi. Sarà sicuramente così, sarà, se no è un pisano falso. Lo ammetto. È un pisano falso. Allora, io sentivo ieri la questione del sindaco Nogarin. Ora, premesso che Livorno non è mai stata, insomma, una città d'arte, diciamola bene. E si comincia. Tutto ciò premesso, però io devo essere sincero, la verità, io Livorno l'ho bazzicata abbastanza per motivi di lavoro, di vacanze, la verità, Allora secondo me Nogarin l'errore che ha fatto è stato promettere troppo, via, non è stato, è arrivato, quando sentivo prima Giannino parlava di populismo a ruffone, e la verità è che lui, espressione di quel mondo grillino che l'ha votato, si è presentato come quello, viene fuori dalla politica, viene fuori da mondi diversi da quelli degli amministratori, però uno quando ci va a mettere le mani dentro, oltre che portare i libri in tribunale, avere anche un'idea di dove mette le mani, non erano cose non sapute, erano cose risapute. E se devo essere sincero, le stesse scene di amministrazione locale un po' così alla un tanto al chilometro da parte dei 5 Stelle si vedono anche in giro qua a Bologna. Uno del candidato dei 5 Annaggia la linea, adesso ci diranno che abbiamo censurato. No. Censurato. Comunque la linea di pensiero di Andrea era chiara, espressa. Cioè troppe promesse poi non mantenute, no? Anche soprattutto dice quando non si sa, facile farla quando non si sa dove mettere le mani, poi si prova a mettere le mani, puff, pasticcio. Esatto. Questo comunque invece il record dell'azienda dei trasporti del Lazio, dove il 17% dei dipendenti, la Cotral, ha un parente infermo e gode da 104. Tra poco ne ricordiamo, parliamo, sempre la percentuale dei dipendenti privati è 1,5 e lì invece 17. State ascoltando un programma offerto da Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. Scegli una realtà che vale. Messaggio pubblicitario. Allora, eccoci qua, sono le 8:42 minuti, caro Oscar. Tantissimi dicono: ah, quanti controlli andrebbero fatti nella mia azienda. Questa cosa ha scatenato molto, Il caffè, le pause caffè. Certo, ma bisognerebbe soprattutto che tutti quanti diventassero spie. Spie. Denunciate il vostro vicino. Ali. Allora, però, appunto, dicevamo: immagina quanta gente alzerebbe le mani a quel punto. L'1,5% dei dipendenti privati usufruisce della legge 104. 1,5%. Nel pubblico impiego si aggira attorno al 10%. Ma C'è un caso, Sergio Rizzo lo raccontava, la Cotral, azienda trasporti del Lazio, si arriva al 17%. Salutiamo l'amministratore delegato di Cotral, compagnia trasporti laziali, Arrigo Giana, buongiorno. Buongiorno Giana, è caduta la linea, adesso lo recuperiamo. Come mai secondo te, caro Oscar, adesso ce lo racconterà Sergio Rizzo, racconta anche di controlli. Arrigo Giana è stato mandato da Milano e da quando è stato mandato pare che abbia messo mano a qualche dossier e ha scoperto alcune cose un po' così. Dottor Giana, l'abbiamo recuperata, eccoci qua. Buongiorno. Allora, è questa la cifra, 17% i dipendenti con 104? Sì, ahimè sì, questa è la cifra con picchi in alcuni depositi che vanno oltre il 25%. Ah, altro il 25%. Questi sono i numeri. E tra l'altro dai controlli non è che proprio assistono i malati, insomma, queste persone. Se non vanno a cavallo? No, direi che dai controlli che abbiamo fatto neanche uno di quelli che abbiamo controllato assisteva i malati. Ah, che facevano? Ma insomma, alcuni si dedicavano ad attività sportive, altri ad attività ludiche, qualcuno al giardinaggio. Neanche uno. Neanche uno. Questa è la cosa più sconsolante, se si vuole. Ci può far capire, al di là della quantificazione, che danno produce questo nell'azienda? Anche visto che l'azienda è i trasporti laziali, certo, e l'ascoltano certo, anche molti pendolari. Certo. Cosa certo, significa certo, in concreto questo? Significa avere sostanzialmente il 20% della forza degli autisti che può legittimamente assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese, anche improvvisamente, quindi in una situazione nella quale ovviamente devono essere coperti i turni, i servizi e quant'altro. Questo crea ovviamente una complessità di gestione, ma spesso crea un disservizio, perché a volte queste assenze improvvise non riescono ad essere coperte, quindi questo determina chiaramente la situazione e quindi la ricaduta sulla qualità del servizio è evidente, oltre ai costi, perché chiaramente poi tutto il resto va gestito in straordinario e quindi anche qui insomma. Anche questo è un costo. Ma le persone pizzicate che hanno detto, cioè quelli neanche uno, perché gli avete detto scusi, lei sta andando a fare sport, lei sta andando a cavallo, lei sta risposta? Ma dalla nonna poi sono passato 10 minuti, poi ne parleremo con il mio avvocato. Però posso fare, no, rido sconsolato, posso fare un'osservazione, se non ci fossero stati dirigenti che avessero tollerato per decenni cose simili, perché è evidente che ci sono percentuali così distoniche dalle medie nazionali e storie private che un dirigente a quel punto inizia a aprire gli occhi, tutto questo non si sarebbe diffuso arrivati a quei livelli, non è così? È la linea. Punto di vista, noi siamo, come dire, effettuiamo i controlli, siamo partiti con questi controlli, ma di fatto di fronte a un certificato medico, se vuole, questo ha un senso in termini di cultura aziendale, cioè in un sistema in cui la cultura è questa, in cui ai ragazzi neoassunti viene presentato un pacchetto del tipo questo è il modo per fare la 104, questo è il modo per diventare idoneo, questo è il modo per avere turni più facili, più comodi. Ma da chi viene presentato? Beh, da chi nell'ambito dei depositi gestisce sindacali, amicizie varie. Ma se questo è l'approccio, cioè, il fesso è chi non la prende la 104. Certo, sì, il fesso è chi rimane fuori. Però io continuo la mia idea, un dirigente vede che questo è l'approccio, se questo è l'approccio deve mettere in atto delle strategie perché vengono eliminate, perché altrimenti significa mettersi... Però le strategie cosa sono? I controlli solo? Sono i controlli. Sono le sanzioni. Come sarebbe a dire? No, nel senso che di fronte a un certificato... Di fronte a un certificato chiami il medico e segnali che il medico X... insomma, complichi la vita a tutti. Questo noi lo stiamo facendo... Perché ovviamente questo è un lato, no, di tutto un sistema, perché ad esempio noi abbiamo individuato certificati per malattia dei bambini falsi. Allora, qui noi telefoniamo ai medici, diciamo ma se il certificato non ci sembra esattamente corretto, il medico ci conferma che è falso. Proprio falso di sana pianta, questo è credo che sia anche un reato grave, no? Falsificare. Beh, certo. Anche abuso della professione medica, immagino. Cioè, se qualcuno... In quel caso l'ha falsificato l'interessato che ha preso una fotocopia di un certificato e ci ha messo un timbro, una firma. Cioè, siamo a questi livelli. Tra l'altro Arrigo Giana, che ricordiamo amministratore delegato di Cotral, ci ascolta anche Marcella Magnino, che vogliamo salutare, è la presidente dell'Associazione Italiana Medicina Previdenziale Assistenziale Fiscale, AIMPAF in sigla. Buongiorno dottoressa Magnino, buongiorno. Buongiorno a voi. Perché buongiorno. i medici fiscali hanno invece proclamato 3 giorni di che cosa? Di protesta vera e propria a Montecitorio, se non sbaglio, 17, 18, 19 maggio. Perché? Certo. Non solo questo, c'è anche un documento condiviso, perché noi in previsione del passaggio all'INPS di tutto il comparto controlli e visite fiscali, sia del pubblico sia del privato, quindi il polo unico dei controlli, vogliamo che ci sia un adeguato budget, un finanziamento adeguato. Adeguato cosa significa? Che l'efficacia dei controlli ottiene un risparmio di spesa, perciò è necessario spendere qualcosa adesso per avere un risparmio immediato. Per intenderci, il nostro paese, faccio un esempio, per la malattia del solo comparto pubblico spendiamo una cifra molto vicina ai 6 miliardi di euro. Se riusciremo facendo i controlli, ad allineare le medie dei dipendenti privati e le medie dei dipendenti pubblici per quello che riguarda l'assenza per malattia. Sì. Risparmieremo? Ecco, 1,5 miliardi. Non è male, no. Giusto? No. Il budget finora, che è stato stanziato anche adesso per il triennio 2015-2017 per le amministrazioni pubbliche di visite fiscali, è 70 milioni. Pochino. Ma non le fanno perché ovviamente se passa al polo unico non saranno più le amministrazioni pubbliche a disporre queste visite, tutto sta in capo all'INPS. Sì. Quindi ci serve che i governi, i ministri, che già stanno seguendo la pratica peraltro, deliberino uno stanziamento appunto necessario. Sono un po' più di risorse. Però perché l'obiettivo da mettere nel mirino è molto congruo e quindi copre con un multiplo l'eventuale queste risorse che servono. Però Oscar, il nostro servizio è inattivo. Oscar, ti faccio io questa domanda, Oscar, visto che qualcuno ci tira in ballo la questione morale, ieri Renzi ha tirato, ma non è questa la vera questione morale, quella di cui discutiamo oggi, cioè gente che appunto non rispetta i contratti di lavoro pubblico privato, adesso magari più nel pubblico, gente che approfitta, sindacati che ci dice l'amministratore delegato, dicono ai nuovi assunti: guardate, questo è il modulo per il 104, questo è il modulo per questa esenzione dai turni. Cioè molto non è d'accordo. Questa la questione che riguarda tutti. Sono riguarda molto d'accordo con te, perché se uniamo i timbratori falsi, chi si produce da solo le ricette mediche, le imprese, ripeto, 60.000 imprese che truffano per avere diritto ai decontributi mentre non stanno assumendo nessuno, capisci perché ieri il capo della Consob dice, di fronte a migliaia e migliaia di risparmiatori truffati con obbligazioni subordinate a cui non sono stati informati dei rischi, lui si autoassolve e dice: no, tutti sapevano tutto, avevano firmato i moduli. Cioè, dall'alto dell'autorità che dovrebbe vigilare sul risparmiatore al basso, questa cultura è trasversale, si è autoassolto. Su cosa stanno indagando le procure allora, signor Vegas di Consob? Perché il governo sta rimborsando per decreto, no, gli obbligazionisti truffati? Lei si autoassolve, però hai ragione tu. Come vedi, tutto si tiene in questo comportamento. Ovviamente arriva un messaggio, dottoressa Magnino, che è critico, nel senso a dire: ma cosa vuol dire? Cioè, se mi dai più risorse controllo meglio, sembra un ricatto. Ci vuole spiegare che non è un ricatto, servono le risorse, perché altrimenti non abbiamo proprio gli strumenti per controllare. No, anche no, perché è pieno di precari a cui si chiede di fare questa cosa per 4 soldi. No, spieghiamolo meglio. Allora, la questione appunto è un po' complessa, ma cerco di essere sintetica. Fino al 2013, come medicina fiscale dell'INPS, noi abbiamo controllato soprattutto i privati e abbiamo contribuito in questi 25 anni di lavoro a ridurre la percentuale appunto di assenze per malattia al 2%, che è una perfetta linea in media con l'Europa e anche direi anche meglio. E quindi diciamo il risultato è stato positivo. È fisiologico che ci sia un certo numero appunto di persone malate, ah, certo. E anche un insomma, adesso normale, la cosa cambia, la invito ecco. Adesso sistema. Adesso la cosa cambia. Cosa succede? Parallelamente il controllo nel pubblico ha avuto un andamento invece antalenante. Se guardate le statistiche, da appena dopo l'emanazione della legge Brunetta c'è stata una notevole diminuzione delle assenze per malattie nel pubblico. Poi gradualmente con i circolari che modificavano le fasce di reperibilità e altre cose si è tornati un po' di fuori dei parametri all'assismo, diciamo. Tant'è che appunto negli ultimi 3 anni sale di fatto di un 10% all'anno, per cui adesso diciamo che la forbice è del circa 8%, cioè 2% i privati, 10% ma le risorse pubblici. Servono quindi per? Le risorse dei pubblici che sono state già stanziate per controllare i pubblici devono passare all'INPS, che controllerà adesso anche loro. Ah, ecco. Questa è la richiesta. Però per concludere, in 10 secondi che dobbiamo concludere, dottor Giana, a queste persone controllate che non dovevano, che non facevano quello per cui erano pagate, che succede? Non riesci a dirlo, non riesci. Le hai difese all'inizio e non riesci a dirlo. Li licenziamo. Le licenziamo. Oh, così si fa. Così si fa. Le licenziamo. Sì, e per questo lo sapevi che non è che sto, non è non che sto riesci, muovendo per questo. Chiamate i medici. Sta venendo una sincope ad Alessandro. Sta piangendo. Ha parenti che non ti imbano. Di traverso questa tutto è la verità. Sto licenziamo. No, prima in realtà. No, ma tu pensa a questo che nell'alternativa il povero Stanchi, tra essere licenziato e essere picchiato dalla moglie se non gli timbra il cartellino. Ma è un eroe italiano il povero Stanchi. O il licenziamento o picchiato o dalla moglie. Povero Stanchi. Però dice le licenziamo. Vediamo se ce la faranno. C'è sempre un giudice a Berlino. Ragazzi, tenda ossigeno per Alessandro. Subito, ossigeno, immediata. Grazie ossigeno. Salutiamo domani se ci si arriva. Se ci si arriva, ragazzi. Licenziato!